Sì, c'è questo pezzo che si chiama Fuck Was I, che mi accompagna tutte le mattine. Direi che lo possiamo ammettere. Lo possiamo ammettere, in effetti è un gran pezzo, l'avrò suonato tipo 20 volte a Coxo Spaziale, ma c'è sempre una 21esima. Sentiamola. Com'è andata la settimana della moda? Fantastico, in effetti ho appena sfilato sabato scorso. Infatti. Quindi potete andare a sentire su coxospaziale.blogspot.com la puntata 440 per sentire che ospite avevamo e qual era questa sfilata. Infatti, se mai me lo siete persi. Ma ti voglio chiedere una cosa. Sì. Hai mai fatto, visto che siamo alla 441esima puntata, hai mai fatto una gag, cioè l'hai fatta o l'abbiamo fatta alla 404, la gag errore su 404? Puntata non trovata, esatto. Error not found. No, in compenso ho fatto questa gag un po' più cretina alla puntata 77 di Coxo Spaziale. Ho telefonato a Bifo e gli ho chiesto di parlarci del 1977 e lui molto carinamente l'ha fatto, ha accettato. Per cui andatevi a ascoltare la puntata 77 su www.coxospaziale.blogspot.com, troverete Bifo appunto che parla del 77. Io lo faccio subito, anzi quasi quasi ho voglia di lasciare la registrazione per andare subito ad ascoltare questa puntata. Magari possiamo mettere uno stralcino. Uno stralcino? Ma no, non mi fa lavorare così. Perché devo fare anche questa okay, cosa? Ok, taglia, no, sai cosa possiamo mettere però? Una canzone. Del 77? Del 77, una canzone del 77. o che hai mandato in onda alla puntata numero 77. Tu lo sai che canzone è uscita nel 1977? No. Ed è incredibile da pensare. No. Video Kill the Radio Star dei Buggles. No. È uscita nel 1977, anche se MTV l'ha usata nel 1980 per inaugurare MTV. Ti prego, mettiamola. È subito. Bellissima, fra l'altro. Sì. Però devi sapere che due settimane fa ha inaugurato, ne parlavamo la settimana scorsa, hanno inaugurato due mostre, tutte e due di Sara Mazzetti, cioè tutte e due, in realtà è una mostra unica in due posti, che si intitola Elsa Morandi e l'Uovo Verde, che in realtà è un libro. Wow. E ci sono sia a Casa Morandi che nel foyer del Dipartimento Educativo del Mambo abbiamo questa mostra che parla, che ci mostra appunto tavole del libro e anche degli schiffi di Sara Mazzetti, che appunto l'ha presentato a Casa Morandi due settimane fa, e io c'ero e ho registrato un po' di quello che ci racconta, per cui andiamo ad ascoltare. Sentiamola subito. Subito. È stato molto complesso per me trovarmi a lavorare visivamente sull'opera di un grandissimo pittore e in qualche modo dover trovare una chiave visiva che funzionasse insieme al suo lavoro, ma non provasse assolutamente a scimmiottare. Nel libro non è mai un dipinto di Morandi, cioè questa cosa non succede mai. E le volte in cui mi sono trovata di fronte a una parte della scrittura che avrebbe previsto il dipingere un Morandi, il disegnare un Morandi, ho trovato un escamotage per levarmi quel problema. Quindi ci sono state, sì, è stato complesso entrarci, e la cosa che diceva Liliana prima, appunto, di trovare uno stile per questo libro, per me è centrale nel mio modo di lavorare, nel senso che io sono un'illustratrice che guarda al progetto, ho uno stile sicuramente riconoscibile, ma poi il modo in cui affronto un libro, un'illustrazione, un progetto è progettuale, non è che metto il mio stile, la mia cosa sulle cose. Insomma, lavoro così, ecco. A livello di costruzione della storia è appunto stato un processo abbastanza lungo e complesso, con alcune stesure iniziali accantonate, da cui sono state poi tenute altre cose. Le chiavi un po' di svolta sono state innanzitutto, sì, l'introduzione di Elsa, che all'inizio non era prevista, come chiave della rivoluzione, diciamo, come personaggio che mi aiutasse a entrare nella vita di Morandi, dialogando con Morandi, ma anche sovvertendo un po' un ordine nel quale io non mi trovo confortevole, nel senso. Quindi il personaggio chiave è stato Elsa. Altre cose veramente determinanti sono state appunto la citazione di Frank Gehry, in cui parla dei Morandi, i quadri dei Morandi, come di edifici. Questa cosa mi ha poi aperto veramente una visione. Il libro comincia con un sogno di Giorgio Morandi, che in via Fondazza 36, dopo aver dipinto per un po', dice: riposo un attimino gli occhi, e si addormenta, e quando si sveglia non capisce più cosa succede, perché appunto incontra questa Elsa, che è un personaggio a metà tra una bambina e una piccola maga, che appunto gli fa vedere un mondo tutto a sé, e poi a un certo punto perde questo oggetto, e praticamente Morandi entra in questo mondo particolare, dove le bottiglie e tutti gli oggetti delle sue nature morte diventano dei palazzi, eccetera eccetera. E a un certo punto appunto Elsa chiede a Morandi di aiutarlo a cercare questo uovo verde. Alla fine lo trovano e niente, e sono tutti felici e contenti, e Elsa finisce diventando di fatto la prima allieva di Giorgio Morandi, e sta lì a dipingere una natura morta con lui. La mostra a casa Morandi continua fino al 30 aprile, e presumo anche anche quella del Dipartimento Educativo del Mambo. Per cui, soprattutto se siete usciti così felici, forse anche un po' esausti dal ricchissimo programma della Children's Book Fair, però siete usciti un po' con il senso di vuoto, ricordatevi che ci sono tantissime mostre che potete andare a vedere, anche appunto questa addirittura anche fino al 30 aprile, per cui gli eventi e le mostre non finiscono. Do that. Il pezzo si intitolava Laundry featuring Well dei Fiesta Alba. Il disco nuovo dei Fiesta Alba, anzi il nuovo EP, esce il 29 marzo e si intitola Fiesta Alba. I Fiesta Alba sono Octagon, Pierre Roth, Fishman e Dos Caras, quattro lottatori, infatti si presentano come dei lottatori di sumo che condividono una passione, lottano una vita intera contro la banalità del conformismo musicale, dello strapotere dei signori della discografia, del declino del rock, della dittatura dell'heavy rotation e della mistica dell'autotune. Questo EP appunto che si intitola come il loro nome di band, Fiesta Alba, esce, dicevamo, il 29 marzo. L'etichetta è Neon Toaster Multimedia e naturalmente ringraziamo il mitico Nicola di Peyote Press che ci ha mandato questa super preview 2 settimane prima dell'uscita del disco. Well, I wish I was an apple hanging on a tree, and every time I Cindy passed, take a little bite of me. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, Cindy is my honey, the sweetest in the south. When we kiss, the bees would all swarm around her mouth. Oh, get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you someday. Well, I wish I had a needle and thread, fine as I could sew. I'd sew my Cindy to my side, and down the road I'd go. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, Cindy got religion, she's had it once before. She grabbed my old banjo man and threw it on the floor. Well, get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Thank you. That's apples in the summertime, peaches in the fall. If I can't have the gal I won't have none at all. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Johnny. Cindy hugged and kissed me, she hung her head and cried. I swear she was the prettiest thing that ever lived or died. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Yeah, get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. I'll marry you one day. I'll marry you one day. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Spaziale. Ciao, sono Emily e questo è Coxo Spaziale. Ta-da! Continuiamo ad ascoltare un po' di musica che ci arriva per email. Questo ci è stato spedito, questo pezzo ci è stato spedito dai fantastici colleghi tedeschi della Boom Rush Productions, per cui ormai siamo soliti ricevere e sappiamo che si tratta di reggae. È un nuovo disco di Rad Dixon che si intitola Hard Times, uscito a gennaio, e il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è Times Are Hard, ed in effetti times are hard. Taz J Records presents Rod Dixon alongside the James into the Cobra. Oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Rough to oh, times are hard. Times are hard, but we've got to face the day. Working hard to find a better way. Times are confused and targeted. I see they took us away from our mother's land and carried us here to so far in Babylon. But God has helped us with his mighty hand, carried us through great tribulation. But the struggle still goes on. Times are hard. Tribulation, but the struggle still goes on. Times are hard, but we've got to face the day. Working hard just to find a better way. Times are hard, still we've got to find the way. Help us, Lord, help us when we pray. E come al solito è venuto il momento per il nostro l'angolo della menzione. La mostra I pittori di Pompei è prorogata fino al 1 maggio 2023. La grande mostra in corso al Museo Civico Archeologico di Bologna, in collaborazione con il MAN di Napoli, a cura di Mario Grimaldi, è prodotta da Mondo Mostre, appunto viene prorogata fino al 1 maggio. Paola Giovetti, la direttrice del Museo Civico Archeologico di Bologna, sottolinea: la qualità delle relazioni tra il Museo di Napoli e quello di Bologna non aveva certo bisogno di conferme, ma non si può davvero tacere in merito alla generosità del direttore Paolo Giulierini, che ha concesso una sostanziosa proroga alla mostra, permettendo così al nostro museo di venire incontro alle tantissime richieste di visita da parte di scuole, gruppi e singoli visitatori che affollano le nostre sale ed hanno espresso un gradimento altissimo per questa raffinata mostra. Io l'ho vista la settimana scorsa e, ringraziando Silvia Tonelli, e devo dire che è una mostra assolutamente da non mancare, non solo se siete amanti della pittura antica, ma anche se siete pittori contemporanei. Questo è il Museo Civico Archeologico in via dell'Archiginnasio 2 e c'è un sito apposito che è ipittoridipompei.it. Prosegue fino al 25 marzo 2023 la mostra O, una mostra di Felix Borch in collaborazione con il Goethe Institute di Roma. In mostra le tavole originali dei libri illustrati di Felix Borch, in cui esplora un mondo magico tra finzione e realtà. Non convenzionale, ma fortemente istruttivo, il suo lavoro presenta tanti tipi di animali e piante che vivono nelle nostre latitudini. Ogni sezione del suo lavoro di ricerca è preceduta da un testo informativo curato a mano. La flora e la fauna nel mondo di Felix sono raccontati in forma di fumetto, piccole storie da cui emergono grandi significati che riportano ai disegni infantili. Felix Borch presenta una miscela di informazioni e divertimento che ben si adatta ad una visione di insieme, senza il timore di un linguaggio diretto e senz'altro fuori dagli schemi. Questo è alla Stamperia Squadro in via Nazario Sauro 27 a Bologna. Giovedì 16 alle ore 18:30 abbiamo a Parsec Crypt con Prot. L'appuntamento Crypt ritorna il 16 marzo appunto con Prot. Il Crit è un momento in cui le artiste e gli artisti si aprono ad una critica collettiva ed un confronto con il pubblico, che potrà esprimere il proprio punto di vista sull'opera, costruendo un'occasione di analisi condivisa. Ogni Crit è aperta a tutti ed è strutturata in prima parte, in cui l'artista non può intervenire nella discussione limitandosi ad ascoltare, e in una seconda in cui invece potrà partecipare attivamente. Prot, pseudonimo di Lidia Proti, approfondisce argomenti quali le energie dell'universo, la costruzione fisica della realtà e il ruolo che l'essere umano assume in essa. Ogni dipinto parte da una storia, di una persona, di un'anima, di ricordi e di cambiamenti. Dov'è il confine tra reale e astratto? Cosa vuol dire reale? Per informazioni dovete scrivere a parsec.bo@gmail.com e questo è giovedì 16 marzo alle 18:30 a Parsec in via del Porto 48C. Per ultimo abbiamo domenica 19 marzo alle ore 17 musica da camera all'Istituto di Cultura Germanica. Clara and Friends, un recital per pianoforte della pianista Sara Bacchini, un recital dedicato a musiche del pieno romanticismo tedesco visto attraverso la poetica musicale di compositori e compositrici le cui relazioni si sono intrecciate nell'arte come nella vita. L'ingresso è ad offerta libera, ma si prega di prenotare all'indirizzo email cultura@istitutodiculturagermanica.com oppure telefonando allo 051 745 9292. Questa è domenica 19 marzo alle 17 all'Istituto di Cultura Germanica in via De Marchi 4 a Bologna. E mentre fisso il vuoto e cerco nuove cure per l'ansia, seduta su un divano che c'è fuori da un portone con su scritto per l'AMSA, non mi ero mai resa conto del silenzio che c'è a quest'ora della notte qua, con in sottofondo solo il ventolone della PAM. L'ennesima sbronza, penso che sono un astro nauta e flutto. Avevo le farfalle nello stomaco, poi ho bevuto l'Autan ed è finito tutto. Passano due matti su Perga con i tacchi, quest'anno va in rosa e abboccano all'esca. Pesci, settimana della moda, pesca. Non c'è Venere di rime, non c'è Venere di rime, che non ti so mai capire. Non c'è Venere di rime, non c'è Venere di rime, ma cosa intendevi dire quando hai detto Pakistan? Pakistan. Pakistan. Maledetta primavera, facce tristi e emoji, occhi rossi, bacche di Loretta Goji. Bar cinesi, sale bingo, mi sento solo, sembra coca tamarindo, ghiacciolo. Sul 14 per l'orenteggio, scendiamo e siamo soli nel parcheggio. E tu mi hai detto, sarebbe salutare una volta nella vita, urlare a chi ci ha fatto male. Non c'è Venere di rime, non c'è Venere di rime, che non ti so mai capire. Non c'è Venere di rime, non c'è Venere di rime, ma cosa intendevi dire quando hai detto Pakistan? Dopodiché, che cosa ci dobbiamo raccontare, Mia? Non sappiamo cosa dire. Beh, potremmo anche mettere un pezzettino, proprio uno stralcio di una bellissima poesia che ha scritto Kumba Touré, una mia carissima amica che è una storyteller senegalese che scrive vari libri per bambini, fra le altre cose anche alcuni illustrati, eccetera, e ha scritto questa poesia ispirandosi al progetto appunto che Vicini Distanti, attraverso Maddalena Papini, ci ha raccontato lunedì scorso, hanno fatto sul ruolo della donna, il viaggio, e hanno utilizzato nel corso del loro evento, della loro serata. La poesia è molto lunga e quindi possiamo la seguiamo. Ascoltare uno stralcino. Però insomma, andate a cercare Kumba Touré online sui socials, su LinkedIn. Come su, si scrive con la K? Koumba, con la C. Koumba, okay. Touré. Tipo francese, infatti, okay. Si chiama forse Touré, non sono sicurissima, ma non plus, ma cioè vediamo, ascoltiamo queste parole sulla donna e sul viaggio. I take myself where I go, see me coming even from afar, like a billboard advertising for joy and justice, raising question in your heart. Your mind may start racing faster. Do you lose or find focus when I travel by? I take myself where I go. No, you don't know who I am. You don't know where I've been. And I can't hide my path forward. The trail of my clothes expose my moves, but don't let the bright of the colors blind your eyes to my inner beauty. Don't let the intricate in the design cover the voices of my struggles. I am a woman in a life of rage, carrying stories in every knot. I take myself where I go, so my bags are so heavy, because I carry the weavers who barely survive, the creators of colors who are dying. I am a voyager, I am a healer, a distributor of fresh beauty. See me moving even further, taking my body with me. Freedom is all I need. Attenzione, scusa mia, ma ci siamo dimenticati di una menzione e fortunatamente c'è qualcuno che ce l'ha ricordato. Sentiamolo nelle parole di Francesco Finotti. Allora, inaugurazione di una mostra 14 marzo ore 11. La mostra è Collezione Biagi, un arcipelago in divenire. Di fatto si tratta della acquisizione e cura e rappresentazione della raccolta di opere dal concorso Arcipelago, concorso per esordienti che si fa da 6 anni, è arrivato ormai appunto a raccogliere una trentina di opere e finalmente facciamo una prima uscita, quindi prima esposizione della collezione Biagi, un arcipelago in divenire, a cura di Sandro Malossini e Francesco Finotti. La sede è quella dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro 50 a Bologna. E venite a vederla perché è una collezione rara. Ci sono opere di artisti molto eterogenei, di tutte le età, che magari appunto nella vita hanno iniziato tardi a realizzare un loro percorso artistico. La mostra inaugura martedì 14 marzo alle ore 11. Ringraziamo Francesco Finotti, uno dei due curatori della mostra, per averci raccontato che cosa ci possiamo aspettare. Spirit cheers. E dunque è finita anche questa 441esima puntata di Coxo Spaziale. Cosa ci dobbiamo dire, Mia? Che io ero Stefano W. Pasquini. E io ero Mia Daschio su PA. E come al solito vi salutiamo con le meravigliose parole del nostro direttore, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Ciao. Ciao. Speakers and turn up the volume.